Io te l'avevo detto, qui non si andava avanti. Io te l'avevo detto, e adesso è inutile pensarci. Io te l'avevo detto, sì, allora, perché non mi ascoltasti? Quando te l'ho detto dov'eri e comunque, se te l'ho detto era già tardi. Ora non mi ricordo cosa mi hai risposto. Sono quasi certo che per te io, o siccome è morto. Quindi fammi un favore adesso, torna nel mio passato. E se ci riesci portami anche un bel fiore, il mio funerale c'è già stato. Oh, io te l'avevo detto, non guardare la vita degli altri. Io te l'avevo detto, adesso guarda, vivi di rimpianti. Io te l'avevo detto molte volte, più di mille, ma ora che posso farci? Se vuoi te lo ridico un'altra volta, se hai voglia di ascoltarmi. Preferisco addio. Ciao, sono felice se mi dici ciao.